Bentrovati a tutti, spiriti erranti. Quello che state ascoltando è Epoca, il podcast, e io sono il Master. Siamo ancora nella parte introduttiva del nostro cammino, e infatti anche questo episodio porterà la cifra 00, perché attraverso le parole di Rust, o meglio Angmar, potrete capire qualcosa anche della saga passata. È alquanto importante, perché influenzerà profondamente anche quella attuale. Queste sono le ultime lettere di Rust, punta di lancia. Quando la terra che i nostri eroi adesso calcano contava alcune ere in meno e aveva un volto diverso, i popoli vivevano dominati dal pugno di ferro dell'Impero Rosso. Un misterioso imperatore, dominato da tutti epoca, viveva, si dice, dentro un'altissima torre rossa, al centro delle lande. Nessuno, a memoria d'uomo o d'elfo, lo aveva mai visto uscire, ma le sue armate schiacciavano i nemici ai confini, e qualunque minaccia interna veniva sedata dai suoi terribili inquisitori viola. L'imperatore era considerato dai più un dio, amato ed odiato allo stesso tempo. Ogni altro culto, compreso l'antico culto dei cinque draghi, era bandito e punito con la morte e la tortura. In quel secolo, gli altri elfi erano quasi del tutto scomparsi. I nani avevano un regno vassallo ad ovest e i silvani vivevano nella foresta di Nethare, a sud. Vi era una pace silente, come il respiro di una pianta d'inverno, una pace garantita dalla costante paura dell'ombra della Torre Rossa. Tuttavia, alcuni covavano il seme della rivolta, seme che germogliò grazie a Rust, punta di lancia, e alla sua compagnia. Queste sono le lettere rimaste a noi, conservate con estrema cura da Kopinski, il grande narratore. Prima lettera. Scrivo queste lettere con mano tremante dal dolore e dalla paura. Ho visto cose che nessun marinaio vorrebbe mai affrontare. Ho superato perigli nei quali nessun avventuriero sognerebbe mai di incappare. E dolori che nemmeno il più colpevole degli uomini meriterebbe. Sono ancora a salute di mente soltanto grazie a Yama. Ma partiamo dal principio della mia storia. Poco più di un anno fa iniziai il mio viaggio. Il mio odio verso l'imperatore era già vivo e le sevizie a cui assistei ancora una volta mi spinsero ad unirmi ad un gruppo di rivoltosi in una cittadina denominata Endofred. Lì conobbi Yama, Nikta e Azalin. Tentammo di assassinare l'inquisitore Von Martin, fallimmo e fuggimmo con la nostra prima taglia sulla testa. Prima nel sottosuolo, poi ancora avanti, lungo il corso del fiume Unger, incontrammo i demoni creati dalla presenza di Epo, o così credevamo. Arrivati dopo mesi ad Edin, la città commerciale sulla foce del fiume, incontrammo Narsi. Egli era un vecchio oppositore della tirannia, nascosto da tempo, che ci mise alla prova e ci donò potente armi. Tra queste, vi era la mia lancia dei sette. Quanto vorrei averla ancora con me. Uccidemmo il capo degli inquisitori e sulla torre della città sventolò il nostro vessillo per la prima volta. Un drago su sfondo bianco, promessa di pace e forza. La gioia durò poco. La città venne chiusa in pochi giorni. L'armata di epoca e il loro comandante, suo primo figlio, scesero per bruciare i nostri corpi. Lo affrontammo nelle fiamme della città e solo i draghi sanno perché ci lasciò andare. Ci disse che sarebbe morto per questo gesto, ma che lo riteneva giusto. Rubammo una nave e fuggimmo ancora. Furono forse i giorni più belli della mia vita. L'amore fra me e Yama sbocciava piano e nessuno dei due voleva di più. Le battaglie ci strinsero tutti insieme, come le piastre di una salda armatura. Il viaggio fu breve e sbarcammo presto sulla costa della foresta di Nethare. Il nostro obiettivo al momento era cercare alleati e un nascondiglio. Nella foresta trovammo entrambi, ma non fu di certo facile. Tentammo di riunire i clan degli Aurendir, ma il tentativo fu stroncato dall'arrivo del secondo figlio, detto poi il pugile. Arrivò sotto le ali del drago più grande che io abbia mai visto. Sotto di lui le perturbazioni d'aria creavano tempeste e nuvole. Lo uccidemmo, ma non senza difficoltà. Questo ci garantì accesso a Nohold Varen, la città degli Elfi Silvani. Lì, il maestro Hidehira scese dalla sua meditazione per incontrarci ed addestrarci. Rimanemmo un mese dentro la sua mente. Io imparai a affinare il mio intelletto come la lancia, e similmente fecero gli altri. Da quel giorno non fui più il marinaio che ero stato. Vi fu un cambiamento. Capii di essere un eroe, un'icona, un punto di riferimento. Quasi senza accorgercene, eravamo diventati capi di una ribellione che covava da tempo nell'Impero Rosso e che aspettava soltanto qualcuno come noi a guidarlo. Ed io, fino a quel momento, non lo avevo capito. Avevo tirato avanti nella speranza di qualcosa che non comprendevo. Ma adesso era chiaro. Epoca per rappresaglia attaccò Reden, l'isola regno vassallo a sud. Gli elfi ci diedero centro i loro migliori guerrieri e con una gigantesca falena ci portarono sulle mura della città minacciata. Non ho purtroppo il tempo di raccontarvi nel dettaglio come difendemmo la città, di come divenni re da schiavo che ero stato un tempo e di come l'abbandonai per andare avanti. Ma qualche parola va spesa. All'epoca del nostro arrivo, il re in carica, Ambrose, era incapace di guidare la difesa. Sua sorella Iras mi tramortì e mi sposò con la forza, obbligandomi a rivendicare il trono. Non ero mai stato sveglio con le donne, ma non credevo che la mia prima volta dovesse essere l'allegato e drogato. Comunque, scacciai Ambrose e salì sulla nave ammiraglio. Mi diresse a intercettare la flotta di Epoca che barcava lo stretto. Pensavo di avere la vittoria in pugno quando suonò il corno del dimenticato, del quale viene raccontato che uccida gli dei e che in quel frangente liberò l'orrore dei mari. Credevo, come tutti, che la storia del drago marino che avvolge l'orrore e lo tiene sul fondo lontano dalle navi fosse una favola per spaventare i mozzi nelle notti di tempesta. Ma quello che vidi fu un gigante alto fino al cielo e fatto di ogni paura dei marinai spazzare via le nostre navi. Mi ritrovarono 3 giorni dopo, svenuto sulla cima di un faro. Avevo tutte le ossa rotte, ma accorsi alla città per preparare l'ultima difesa. Yama commise l'errore di non fidarsi di Iras, tentando di sondarle la mente, la spinse al suicidio. Non che l'abbia mai amata, ma non si morte per lei. Affrontammo le battaglie dei giorni successivi con rabbia, ardore e decisione. Non mi credereste se vi dicessi che vi era una scolopendra grossa come il bastione est e un ragno gigante grande come il torrione. Non mi credereste, vero? Abbattemmo uno dei 2 generali il 5° giorno di maggio e lì persi la mia lancia, bruciata dalle sue fiamme infernali. Lui era il successore del primo figlio, ormai morto per noi, supposi. Il 7° giorno arrivò il clan di Byrahen, sangue bollente, nani dei monti del ferro, grazie ai quali distruggemmo almeno 10.000 soldati sotto il vessillo della Torre Rossa. Il 13° giorno rimaneva soltanto la metà dell'esercito di Epoca, circa 9.000 soldati in armatura nera, e noi eravamo soltanto in 2.000 coscritti. Decidemmo di sfidare a duello il 2° generale, lo battemmo in un singolar tenzone. Si lasciò uccidere per imprimere il mio marchio. A causa di questo rimasi stesa per settimane in preda di incubi e dolori, senza sapere se avrei visto la luce del giorno. Mentre Yama, Nikta e Azalin finivano ciò che rimaneva dell'esercito nemico. Oramai allo sbando. Avevamo vinto. L'impossibile era stato compiuto. Ma io sto morendo. Diamine. Posso iniziare a scrivere quasi al presente, visto che sono passati soltanto 22 giorni dalla vittoria. Ce ne siamo andati, su una nave volante nanica, in cerca di rifugio presso il Lord del Ferro. Ci ha accolti. È una nana. Sembra buona e salda nella rivolta. Peccato non lo siano gli altri clan della sua stima. Ho una febbre alta e appiccicosa. Ho sempre freddo e vedo ormai soltanto a volte. Sento ogni giorno sbiadire la speranza di sopravvivere. La cosa che fa più male è sapere di dover lasciare Yama prima del tempo. Certo, lei non è fascura, avrebbe per forza vissuto più di me. Ma andarmene così, quando ancora non siamo riusciti a dirci che ci amiamo. Vorrei baciarla. Ma il mio cuore sembra gelato, la mia mente è pesante e vecchia. Mentre sello il cavallo masticando foglie di coca per reggermi in piedi. Oggi partiamo. Epoca stesso ci ha sfidati a duello, nelle piane del grano giallo. Oggi noi 4 andremo a morire contro l'imperatore che nessuno ha mai visto. Peccato. Seconda lettera. Non mi ha permesso dall'incantesimo scrivere di più. Ma lascerò qui, nella casa di Azalin e Nera, quest'ultima testimonianza. Ho scoperto che forse Epoca non è il male. È molto più di un pazzo, certo, ma lui sorregge il mondo in una sorta di pace. ha creato un potere immenso. È come se fosse divenuto l'epicentro di tutta la magia del creato. Ci ha portato via tutto. La casa, gli amici più cari, la famiglia. Ed inoltre la vita, la fede nei draghi e ogni convenzione. Tuttavia abbiamo accettato di divenire suoi vassalli, con la promessa di un mondo migliore. Firmato, Rust, punta di lancia.